il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Siamo in autunno, periodo di castagne, di patate americane, giuggiole e tanti altri prodotti di stagione, ma tra questi c'è anche la noce, un frutto che oggi forse è considerato secondario sulle nostre tavole, ma che un tempo era un alimento principale nell'alimentazione contadina, anzi era una vera e propria ricchezza possedere un albero di noci. Oggi questo frutto viene rivalutato non solo perché è ottimo, ma anche per le sue proprietà nutritive e benefiche per la salute. Per conoscerlo meglio abbiamo pensato di sentire un'imprenditrice che della coltivazione delle noci ha fatto non solo un'attività economica ma anche una passione. Gina Barbara Sturaro, titolare dell'azienda agricola Corte Gemma di Monsole, frazione di Cona, in provincia di Venezia. Benvenuta Gina Barbara. Buongiorno. Buongiorno. Io coltivo noci della varietà Lara. La varietà Lara ha una caratteristica particolare, che è una noce molto dolce, che non pizzica e perciò riscuote grande successo nel pubblico, è apprezzata anche dai bambini perché non dà nessun pizzicore al palato e è una noce anche di calibro grosso. È un prodotto anche naturale, noi non eseguiamo sbiancature, perciò il prodotto si trova a grezzo e questo qua fa sì che le sue caratteristiche organolettiche vengano maggiormente esaltate. Ecco, partiamo, abbiamo detto qual è questa qualità, ma vorrei partire proprio dall'inizio. La noce, è questo il periodo delle noci in realtà? Questo diciamo che ottobre, novembre e poi in tavola durante le festività non può mancare la noce, anche perché la noce è simbolo anche di abbondanza e perciò le dico tutto il periodo autunnale fino alle feste è il boom del consumo delle noci, anche se in realtà negli ultimi anni il consumo delle noci per molti consumatori lo mantengono come abitudine per tutto l'anno. Per tutto l'anno. Alla mattina molti consumatori fanno colazione mangiando 3-4 noci. Questo perché tanti medici consigliano le noci come alimento da inserire abitualmente nella dieta, sia per le persone cardiopatiche, sia per le persone amanti della buona alimentazione e non ultimo le persone che hanno problemi di stipsi, se mangiano le noci alla mattina c'è una buona funzionalità intestinale. Ecco, abbiamo detto all'inizio che le noci oggi appunto sono riscoperte, ma una volta erano un alimento base un alimento base perché era un prodotto che si riusciva a conservare per l'inverno, era un buon prodotto, ricco di calorie, era un tesoretto che si metteva via per l'inverno. Oggi che abbiamo non ci sono più questi problemi alimentari, perché una volta non si mangiava, cioè era un problema anche reperire gli alimenti. Cioè, certo. Oggi sulle nostre tavole abbonda di tutto, ma una volta non era proprio, non c'era grande abbondanza. E l'inverno era sempre un po' duro da passare, si cercava di fare una scorta per arrivare all'anno successivo. Era un serbatoio per l'inverno. Era veramente una scorta. Nel granaio si mettevano via le pannocchie, si mettevano via le zucche, si mettevano via le patate, si mettevano via i fagioli, si mettevano via i salami e si mettevano via le noci. Ecco, senta, ma come le è venuta l'idea di coltivare noci? In quelle zone, anche nella bassa padovana, veneziana, ci sono tanti altri tipi di frutta, ma le noci mi sembrano... Le noci sono... è un qualcosa di un po' originale. È successo che più di 20 anni fa, nel 92, mi sono incontrata con degli agronomi e si discuteva su che cosa coltivare. anche perché io in quel periodo avevo estirpato un vigneto e cercavo qualcosa che sostituisse il vigneto. Appunto, un gruppo di amici siamo partiti e abbiamo piantato queste noci, che è una varietà francese, e siamo partiti come pionieri. Le dico, il percorso non è neanche stato facile, perché ovviamente abbiamo adattato una pianta che era nata in un clima atlantico nel nostro clima della pianura padana. Il clima della pianura padana ha un grosso handicap, ha l'handicap che è un clima molto umido, certo. Perciò diciamo che i funghi vanno a nozze. E anche questi alberi hanno qualche problema. Ne torniamo a parlare tra qualche minuto, ci fermiamo un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di un frutto tipicamente autunnale, le noci, e lo stiamo facendo con Gina Barbara Sturaro dell'azienda agricola Corte Gemma di Monsole, frazione di Cona. Ecco, stavamo dicendo delle difficoltà di coltivare le noci nella pianura padana, un po' per la troppa umidità. Quali sono un po' le difficoltà e le caratteristiche della coltivazione delle noce? Le difficoltà sono legate al fatto appunto che il clima tante volte umido, le nebbie soprattutto, causano delle fitopatie, e queste fitopatie abbiamo dovuto un po' a nostre spese capirle, e negli anni le abbiamo anche domate con degli interventi mirati, perché in un primo momento non si capiva che cosa si doveva fare esattamente. Oggi come oggi, insomma, dopo 20 anni di prova e riprova, insomma, siamo riusciti ad arrivare a un buon controllo della situazione, anche se la cultura deve essere monitorata costantemente. Questo controllo viene fatto sia visivamente con ispezioni giornaliere, sia con analisi fogliari per vedere appunto lo stato di salute della pianta. Costantemente anche la salute del frutto. Controlliamo anche un altro nemico della noce, è il verme. E per controllare il verme facciamo un controllo del volo, cioè monitoriamo il volo attraverso delle trappole. Delle trappole noi monitoriamo il volo, e monitorando il volo facciamo degli interventi insetticidi mirati. Ecco, quando si capisce se il frutto è pronto da raccogliere? Per mangiarlo, ovviamente. Si capisce che il frutto è pronto da raccogliere quando il mallo comincia a scoppiare, perché il griglio che noi mangiamo è avvolto dal guscio e il guscio è avvolto dal mallo. Certo. Quando il mallo comincia a scoppiare, il frutto è pronto per essere raccolto. E comincia la lavorazione. Voi dovete prenderlo, aprirlo, lavarlo. Bisogna raccoglierlo, lo raccogliamo meccanicamente con delle spazzolatrici, arriva a casa, viene lavato, smallato se ci sono ancora dei frutti con il mallo parzialmente attaccato, poi viene posto ad essiccare, viene essiccato a una temperatura quasi ambiente, sui 30-32 gradi, e servono 3-4-5 giorni di essiccazione. Dopodiché il prodotto viene calibrato, cioè vengono tirati fuori diversi calibri, suddivisi quindi le varie misure, e poi passa ancora attraverso dei tavoli di cernita dove delle signore fanno l'ultima ispezione, dopodiché entra nel sacco pronto per essere consegnato al consumatore. Ecco, l'ultima cosa, come si consuma? Ovviamente sappiamo, con lo schiaccianoci si apre e si mangia, ma si può fare anche altro. Può gustare anche in cucina in mille altri modi. Un classico è gorgonzola e noci, che con il quale si possono condire, si può condire la pasta e i gnocchi, si può mangiare con un prodotto tipico della nostra zona, che è il radicchio. Noci, radicchio e formaggio, è un'insalata meravigliosa. È molto buono anche la noce, se si inserisce anche nella carne, se si fa una farcitura, un rotolo, qualcosa, si mette dentro anche dei grigli di noci, è molto buono. E poi nei dolci si può usare in mille modi, anche nel pane. Il pane con le noci è un pane molto apprezzato. Sì, assolutamente. A me d'estate, per esempio, piace nella Macedonia, perché il morbido dei frutti e il croccante della noce dà un buon contrasto e rende la Macedonia ancora più buona. Perfetto, volevo dare l'ultima notizia, che voi avete anche, solo in questo periodo dell'anno, uno spaccio aperto dove si può acquistare questo prodotto insieme alla carne, che è l'altro vostro prodotto aziendale. Noi il primo sabato di ottobre fino all'ultimo sabato di dicembre e il venerdì e il sabato apriamo il nostro spazio aziendale dove vendiamo le noci in confezioni da 2, 3, 5 kg e poi vendiamo anche la carne di nostra produzione, facendo un servizio al banco come una macelleria e anche inserendo molti preparati tipo rotoli, involtini, girelle, svizzere. Abbiamo anche una svizzera che abbiamo messo, diciamo appunto noi, che è specchio, radicchio e noci, che secondo me è favolosa. E poi anche tanti altri tipi di svizzere, ma questa qua è praticamente un prodotto che abbiamo particolare, è un prodotto che abbiamo un po' messo a punto noi perché producendo noci e carne abbiamo cercato di sposarle assieme ed è un prodotto molto, molto anche apprezzato dai consumatori. Io consiglio a tutti di assaggiarle perché merita. Benissimo. La ringrazio. Allora, se qualcuno passa da quelle parti in zona di Cona può passare a trovarvi. A Monsole, c'è questa azienda lungo il canale Rebosola, proprio nella strada, è una strada, c'è anche una buona viabilità, non siamo proprio interni, siamo nella strada principale, facilmente raggiungibile. E può avere una buona opportunità di portarsi a casa dei prodotti genuini. Grazie. Arrivederci. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento la prossima settimana con il Quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.